Louisiana, Louisiana, mon amour. Oh, Louisiana, Louisiana, mon amour. E poi lì c'è il Mississippi lì. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa. Un saluto da Drago. Come ogni giorno vi parliamo dell'asilo Stoppani. Eccoci qui. Stoppani, luogo per eccellenza della crescita, perché all'asilo si viene per crescere. Di crescita, vedo che sei sul pezzo. Si cresce indipendentemente dall'asilo. Vabbè, serve per crescere civilmente. Tu sei sul pezzo, Kappa, sì, perché di crescita si parla tantissimo nei palazzi della politica, perché la crescita è l'obiettivo della fase 2 del governo Monti. Sì, meglio ricordare al pubblico che per crescita non si intende quella grigia dei capelli della Camusso, certo. Non sa mai, magari quella è la ricrescita, no? Che semmai verrà affrontata nella fase 3. This is phase 3. Quindi se si vuole parlare di crescita, nessun luogo è migliore dell'asilo. Qui le generazioni future apprendono i primi rudimenti del vivere civile. Certo, bei discorsi, però vallo a spiegare alle imprese che sono in difficoltà perché ormai la banca ha chiuso il credito. Banca impresa. No, la banca intesa ha chiuso il conto all'impresa. Proprio questo. Vaglielo a dire a loro che bisogna ripartire dall'asilo, perché crescita per quelli lì vuol dire crescita subito. Altro che generazioni future, rudimenti del vivere civile. Come nel film di Pozzetto, quello da grande, che poi ha rifatto Tom Hanks, mi sembra, si chiamava Big. Vabbè, non sai niente. E cosa è successo? Di cinema, Drago, tu sarà roba. Cosa è successo? Fai uno sguardo interrogativo, no? Sì, certo. Che Pozzetto improvvisamente, da bambino di 10 anni, che dice non ce la faccio più, voglio diventare grande, tac, in un attimo diventa grande. È così che vogliono, gli imprenditori vogliono diventare grandi. Drago, anche l'asilo può diventare un aiuto al PIL, no? Sì, l'asilo, ma è una cosa lunga l'asilo. Guarda, capito? Che gli affari si fanno con le cose più strane, per esempio il PIL giapponese nel 2011, che è stato un anno abbastanza sfigato, per non dire orribilis, un anno orribilis, sì. Per i giapponesi, il PIL giapponese è stato aiutato tantissimo da un gruppo di 92 ragazzine. Ma cos'è, Drago, smetti, dai, vestite da scolarette, tipiche, no? Sì. Che cantano male del pop spazzatura giapponese, appunto. Cioè, il PIL giapponese è stato aiutato da questa band di 92 ragazzine. Il PIL, per fare il governo su tutti i vecchi, vedono le ragazzine nel PIL, si alzano. Erano le HB48. HB48, sì, che sono però 92. Infatti, ragazzi, perché 48? Non lo so, sono giapponesi, Drago, non sono né belle né brutte. Sì. Non lo dico per quelli che non hanno visto il video. E cantano, vedi, un po' all'unisono. Sì. Fanno. I video sono un po' soft porno lesbico. Ho visto, però, dai. Porno. Carine. Eppure, però, queste qua vendono tantissimo. Sono in TV 7 giorni su 7. Ma in effetti. Con guarda, questa robaccia qua, perché sono 92 e si chiamano 48. A parte 92-48, se tu ti ricordi, i Beatles, in quasi 40 anni hanno aiutato moltissimo il PIL britannico, tanto quanto il petrolio del mare del nord, l'aveva detto Blair. Ma ho capito, però i Beatles ci hanno messo un po' di tempo, queste qua lo stanno facendo a tempo di record. Vabbè, è bastato moderni. Che una di loro dicesse quale marca di reggiseno preferiva per far esaurire le scorte di quella marca in un sol giorno. È un aiuto così, proprio immediato. Hanno sponsorizzato una marca di caffè e quel caffè cosa ha fatto? Ha aumentato le vendite in un sol giorno del 7%. 7%, vabbè. E quindi poi hanno aperto negozi, caffetterie con il logo HB48, capito? All'estero, sì, a Singapore, Hong Kong, Shanghai. La crescita in Giappone passa per le ragazzine e il loro indotto. L'indotto delle ragazzine, ma che indotto c'è? Ma scherzi, le HB48 possono sponsorizzare di tutto, dal make-up all'intimo. Vabbè, dai, l'intimo delle scolarette, diciamo, è un cliché erotico giapponese, non mancherà sicuramente. Infatti è partita la caccia all'intimo usato dalle HB48. Sì, 92 usato. Mutandine usate, tutte schiacciate in un sacchettino sotto vuoto. Pensa che roba. Vabbè, quindi cosa consigliamo al super Mario Monti, cioè per favorire la crescita? Dici che il PIL può crescere, cosa possiamo fare? Non so, nominare Gianni Boncompagni ministro dello sviluppo. Sì, lui c'ha quelle idee. Consigliamo di investire anche lui sui giovani, anzi sulle giovani. Vabbè, ma lo faceva già il premier precedente, i risultati sono sotto gli occhi di tutti. No, ma lui non investiva sulle giovani, lui le investiva nel senso letterale, capito? Le investiva di carica erotica. Super Mario no. No. E ora, bambini, ricreazione. Ciao, Joris. E cosa? Joris? Ciao, Albert. Cosa c'è? Alberto, non sto bene, guarda. Non mi sento tanto bene. Si vede, ma che cos'hai? Non lo so, mi fa male tutto lo stomaco, i crampi. Mi sembra che ho preso lo spread. Lo spread? Ma in che senso? Nel senso che si sente parlare dappertutto, in televisione, a casa, mia mamma, sta lo spread, sta lo spread. Quello è un male di stagione, me lo sono preso. Ma no, ma quali? Ma l'influenza di anche tua madre. Lo spread è una roba finanziaria, no? Finanziaria di soldi, di capitale. Ma no? Che dici? Praticamente sarebbe è una differenza, no? E c'è questa differenza. Tu sei italiano, hai degli euro, io sono tedesco, li ho uguali. Ma non ce l'ho. Però c'è una differenza che quello lì è il problema, no? Più o meno così. Bene, allora, io soldi non ce l'ho, e quindi che vuoi dire, Alberto? Tu sai che cos'è lo spread? Me l'ho spiegato, cioè se devo essere ancora più chiaro, beh, non so più di così. A me mi fa male lo stomaco, beh, io ogni 30 secondi ho scappato dal bagno. Vabbè, allora è la diarrea, cosa c'entra lo spread? E quello è un sintomo influenzale di stagione, mi hanno detto. Ma quello ci vuole, lì ci vogliono gli antibiotici, ci vuole il medicinale, no? E per lo spread che devo prendere? Per lo spread, una volta che dici, oh, è lo spread, allora lì non c'è niente da fare, non c'è dottore che tenga. E lì ci vuole Super Mario, Ah, Super Mario! Super Mario, no? Perché ci sono tanti Super Mario? Super Mario è lui, no? È un dottore. È un dottore di paese, no? Cioè, capito? Ci sono i dottori dei bambini, i dottori degli adulti, i dottori dei paesi. Dico, questo paese è malato. Ma questo paese sta morendo. E sì, e beh, noi facciamo venire un dottore, fingiamo che si può guarire. Lui fa di tutto, no? E mi fa passare pure i grambelli dentro lo stomaco, che questo spread mi sta spremendo tutto. No, adesso, per un periodo, aumenteranno gli spasmi. Andrai ogni... praticamente dovrai farti una cuccetta in bagno. Perché poi ci sono 2 anni di sacrifici, no? E ognuno fa i suoi. Tu c'hai la diarrea e non si può passare. E c'è l'austerity. Non possiamo mica spendere soldi per la tua diarrea. I farmaci, uè. Per millenni si è vissuti senza niente, con le bacche e le radici. Ci sono i bull dei BTP che vanno su, poi tornano giù. La borsa, sai, è un luna park, ma tanto ormai siamo quasi al crack. Lo spread cos'è che vuole Dow Jones? Lo spread che sale. Se l'euro è un flop, vedrai che poi questo default ci tocca a noi. Se il debito è di tutti, soldi, ma tu spread. Non ne hai, tu sei povero. Appunto, prestami 50 euro, E ora, bambini, e tutti a casa. Tito, aspetta, fermo lì. Vedi, io adesso riesco a far attraversare Tito, anche una tangenziale così trafficata, solo con i miei ordini. Tito è così, io, sì, io l'ho educato ma non così. Puoi, non è Tito, che fermo, aspetta. Tito, aspetta. Ma se non riusciamo a passare noi, figurati se riesce Tito. Ma non dai. Gli dirò mai vai. No, Tito, fermo, eh. No, sì, dici vai. Non dire vai, no, Tito, non dirlo. Non puoi dirlo. No, dobbiamo fare un lipogramma, cioè fare il prossimo dialogo senza, senza la parola vai. Vai. No, dai, no Tito, aspetta. Così, Tito, ok, dai. Allora, hai sentito che Marchionne resta fino al 2015 alla guida della Fiat, a meno che un bus non mi tiri sotto? Lui ha detto così. Un bus Iveco, sì. Cioè Fiat. O Chrysler, no. Ma secondo te come fa a essere così sicuro che fino al 2015 resta lui? Ma come fa? Comanda lui, decide lui. Vabbè, John Elkann allora non conta niente. Ma John Elkann, dai, ma tu te lo vedi John Elkann nell'ufficio di Marchionne? Perché? È tutto azzimato, sì, vabbè, no? Vestito in completi raffinatissimi, sì. Faccia da bambino, a tu per tu col maglioncino blu pezzato sotto le ascelle di Marchionne. Vabbè, ma a quei livelli la differenza d'età non conta, ma no? Sì, i soldi sono di Elkann, Marchionne è uno stipendiato. Sì, però se va via Marchionne, Elkann è fottuto. Ma guarda che tu lo idealizzi troppo, Marchionne. Ma Mandrago, te lo dico da mesi. Non è che lo idealizzo, è che lui mi attrae inopinatamente, anche perché io in realtà non ho mai avuto passione per le Fiat. Ho giusto comprato una Panda 30 usata tanti anni fa. Però né Agnelli, questa famiglia, non mi ha mai attirato. Invece Marchionne c'ha qualcosa, non lo so. E comprati una Panda, non so. Adesso esce quella nuova. Scrivete a chiedo asilo. Aspetta, chiedo asilo tutto attaccato, una sola parola. Una volta i ti.